Ed eccoci nuovamente tornati con la nostra diretta nazionale Provenzano DJ Out of My Summer Night su M2 Muscolo Stato Puro. Chi vi parla è Edward del Matador, dalla spiaggia di Rimini, stabilimento Basilico 47-48. Ciao Italia! Faccio un esempio, alziamo le mani, battiamole a tempo. Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba. Nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Altro spazio a certi assassini.

oggi con Provenzano DJ Out of Mind Summer Live. Ed è arrivato alla sua fine, ma niente paura, niente paura. L'appuntamento viene rimandato domani, sempre qui al bagno 47-48 Basilico Beach. Sono su